Approfondimento a cura della Cassa di Solidarietà La Lima, svolto presso l'Università La Sapienza di Roma in data 20 giugno 2024, la DNAA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, secondo di due incontri, l'antiterrorismo. Innanzitutto buongiorno e benvenute a tutte e tutti. Questo è il secondo appuntamento di approfondimento sul ruolo e le strategie della DNAA, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Durante il primo incontro, che abbiamo tenuto circa un mese fa sempre qui in Sapienza, abbiamo, diciamo, c'è stato un approfondimento sul suo ruolo circa la creazione e consolidazione di fenomeni sociali come quello migratorio e quello mafioso, e l'equiparazione delle loro dinamiche specifiche utile poi a emanare delle leggi in circostanze emergenziali che poi entrano a far parte dell'ordinamento ordinario, diventano regola ordinaria e vengono estese anche ad altri contesti. Se la DNA, quindi con una sola A, dell'antimafia nasce nel 92 in seguito alla morte di Falcone e Borsellino, dal 2015 viene aggiunta la seconda A, che è quella dell'antiterrorismo. Quindi se nella prima A, diciamo, l'unica funzione era quella di coordinare a livello nazionale le indagini relative alla criminalità mafiosa, con la seconda A, appunto, la superprocura ha una nuova competenza, ovvero quella della trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale. L'attenzione da parte dell'Italia circa la tematica del terrorismo nasce dal secolo precedente e dall'esperienza maturata con quello che poi verrà definito il terrorismo nero e il terrorismo rosso, e dall'esigenza da parte dell'Italia, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea e della NATO, di dotarsi di organi specifici per contrastare il fenomeno del terrorismo. Questa necessità diventa ancora più impellente dopo il 2001, in cui tutti i paesi decidono di dotarsi di organi specifici per riuscire a individuare e neutralizzare il nemico terrorista. Rispetto alla seconda A facciamo un piccolo passo indietro, quindi se nel 2015 viene aggiunta la seconda A, nel 2007 invece, durante il secondo governo Prodi, viene varata la riforma dell'intelligence italiana, perché comunque la gestione della tematica del terrorismo è appunto deputata completamente alle agenzie di spionaggio, che vengono riformate nel 2007, vengono creati nuovi organi, vengono modificati i precedenti, ma la modifica principale è che se prima le due agenzie principali erano il SISDE e il SISMI, il SISDE è il Servizio di Informazioni per la Sicurezza Militare, che dipendeva direttamente dal Ministero della Difesa, il SISDE è il servizio, il SISMI, sì, giusto, è il SISDE invece, che è il Servizio dell'Informazione per la Sicurezza Democratica, dipendente direttamente dal Ministero dell'Interno. Entrambe le agenzie rispondono direttamente al DIS, che è il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che a sua volta risponde direttamente alla Presidenza del Consiglio. Quindi la Presidente del DIS altro non è che Giorgia Meloni. Il DIS ogni anno pubblica una relazione che si chiama Relazione Annuale sulla Politica dell'Informazione per la Sicurezza, in cui viene trattata una vasta gamma di argomenti che vanno dal terrorismo jihadista al cambiamento climatico, alla cybersicurezza. Veramente tocca qualsiasi tema che possa interessare, che possa intaccare gli interessi nazionali, e tra questi ovviamente c'è anche la minaccia eversiva e l'attivismo estremista. Sostanzialmente quello che c'è scritto in questi report su quest'ultimo punto, che ovviamente è quello su cui ci siamo soffermate e soffermati noi, è che le istanze rivoluzionarie continuano ad animare le componenti dell'antagonismo, che però soffrono, a detta dello Stato, di questo assottigliamento tra le proprie fila, e quindi sono propense a sfruttare qualsiasi forma di disagio e di ribellismo sociale che sono in grado di produrre violenza antisistema. Quindi per lo Stato, compagni e compagni, quelli che poi lo Stato andrà a identificare come terroristi, sono tutte quelle persone che si insinuano tra i poveri, si insinuano tra gli sfruttati, si insinuano dove c'è disagio per andare a fare del becero proselitismo, per andare a toccare delle tematiche di forte leva, come per esempio quella del lavoro, per screditare la politica istituzionale e per attaccare i pilastri dello Stato. Sostanzialmente fanno sì che venga radicalizzato il disagio sociale. Dove avviene questo sono i luoghi più periferici e i luoghi meno controllabili da parte dello Stato, e sono proprio quei luoghi che andiamo a vedere più avanti, dove lo Stato concentrerà la sua presenza. Una lettura che abbiamo trovato assolutamente interessante circa il tema appunto delle rivolte e della risposta dello Stato alla minaccia del nemico interno è A chi sente il ticchettio, che è una pubblicazione uscita in seguito al convegno antimilitarista del maggio del 2008, in cui compagni e compagne, tra le varie cose, si sono soffermati sull'analisi del rapporto NATO Urban Operations in the Year 2020, che è un documento stilato dagli analisti della NATO circa il pericolo delle insurrezioni urbane in quelle bidonville accasciate che hanno visto quel processo di bidonvillizzazione, quindi la creazione degli slum, che saranno le metropoli del futuro. Il problema sostanziale per gli stati moderni è che la dottrina bellica convenzionale, ovvero tutta quell'esperienza maturata nel secondo dopoguerra, ha bisogno di un nemico altrettanto convenzionale, quindi di un esercito regolare. Il problema è che è come affrontare quell'esercito composto da irregolari, quell'esercito che è prettamente interno e che è composto dallo scontento popolare, dai poveri, e che vanno a comporre, diciamo, una rivolta che non ha capo, non ha legge, ed è una rivolta invisibile e orizzontale, perché è comunque presente nelle pieghe visibili del presente, ma che per lo Stato si rivela estremamente difficile da individuare e da attaccare. Nell'identificare le metropoli come le future polveriere sociali, la NATO dà delle direttive ben chiare circa la prospettiva di affidare la gestione dei conflitti sociali all'esercito e agli eserciti. Ed è per questo che appunto sono svariati anni che anno dopo anno lo Stato italiano prova ad abituarci alla presenza di, al di là degli sbirri, proprio dei militari in città. Una presenza sicuramente che è stata intensificata con l'operazione Strade Sicure del 2009, appartenente al pacchetto Maroni, e che magari con i prossimi interventi analizzeremo meglio. Nell'ultimo quarto di secolo quello che ha fatto lo Stato è stato sfruttare degli eventi che hanno scosso l'opinione pubblica, ma parliamo non solo di eventi di natura bellica come ad esempio appunto l'11 settembre 2001, l'attentato di Londra del 2005, Charlie Hebdo e Bataclan nel 2015, ma anche crisi finanziarie come quella che ha colpito gli Stati Uniti nel 2008 e che poi si è rivelata essere la più grossa crisi finanziaria globale, e anche eventi che diciamo si possono definire naturali, nonostante diciamo siano comunque una conseguenza di quella forsennata ricerca da parte del capitale di nuovi spazi di valorizzazione, come ad esempio alluvioni, incendi e anche terremoti, fino ad arrivare all'ultimo grosso evento, che è quello del Covid, che ha visto proprio delegare una questione prettamente sanitaria a eserciti e sbirri, e che si è portata con sé una serie di divieti, di limitazioni delle libertà personali. La risposta a tutti questi eventi è stata sempre varare nuovi pacchetti sicurezza e nuove norme, sempre in un'ottica emergenziale, che poi appunto rimangono ed entrano a far parte dell'ordinamento. Il meccanismo è piuttosto semplice, cioè una volta dichiarata l'emergenza lo Stato si autoproclama come unica soluzione possibile, ed è così che quegli stessi eventi che lo Stato definisce catastrofici e per i quali bisogna correre ai ripari sono quegli stessi eventi che permettono allo Stato di fare delle sperimentazioni sul campo. Un esempio lampante, che è anche riportato nel libro che abbiamo citato prima, è quanto accaduto in seguito al terremoto in Abruzzo di fine 2008, in cui le testimonianze parlano, oltre proprio alla presenza massiccia degli sbirri, 200 sbirri ogni 160 sfollati, ma anche l'impossibilità di autogestirsi, di lavarsi, di cucinare da sé, l'impossibilità di andare a trovare parenti e amici in un altro accampamento senza essere identificati, impossibilità di avere animali da compagnia, di averci il computer in tenda, di avere la televisione, e oltre ai divieti specifici, proprio forme di controllo, ad esempio gli sbirri che entrano in tenda alle 4 del mattino puntando la torcia in faccia a tutti gli sfollati per essere sicuri che non ci fosse nessuno sfollato fuori dalla tenda dopo il coprifuoco. La domanda che sorge spontanea è: come mai lo Stato, diciamo, applica questi meccanismi coercitivi anche con degli italianissimi sfollati, vittime di un terremoto, che non hanno fatto niente di male nemmeno per lo Stato. Perché si sta esercitando? Perché queste sono proprio le direttive della NATO. Che succede? Che gli strateghi della NATO avevano ben chiaro, avendo osservato a partire dalla fine degli anni 70 quel processo di l'aumento esponenziale delle bidonville e degli slum, avevano ben chiaro che la metropoli del futuro non sarebbe stata quella città che si auguravano i fan del moderno, con quei palazzoni di acciaio e vetro che si stagliano verso il cielo, ma piuttosto sarebbe stata composta da baraccopoli composte da materiale di recupero, legname, plastica riciclata, cartoni catramati e materiale raffazzonato. Insomma, il futuro nemico all'interno di questi posti, il futuro nemico delle nazioni progressiste, sarebbe diventata quella grossa fetta di popolazione urbana che versa in condizioni di assoluta povertà e che si riversa in quei luoghi di infimo valore dove i rifiuti urbani e gli sfruttati indesiderabili vengono ammassati insieme. Arriviamo quindi a dagli anni 70 osservano questo processo, si arriva alla fine degli anni 90 dove la Banca Mondiale dice chiaramente che la povertà urbana diventerà il problema principale e politicamente più esplosivo del prossimo secolo. In parole povere, Banca Mondiale e strateghi militari capiscono che quella che viene definita l'urbanizzazione della povertà avrebbe portato in automatico all'urbanizzazione della rivolta, e quindi bisogna equipaggiarsi per lo Stato per questa nuova guerra, che è una guerra a bassa intensità, di durata illimitata, e che si svolge su un campo del tutto nuovo, che è quello delle periferie affamate, dove appunto già loro immaginavano che sarebbero scoppiate sommosse, disordine civile, che avrebbero appunto comportato l'intervento delle autorità locali. Arriviamo quindi così ai giorni nostri, dove lo Stato torna a identificare la minaccia interna proprio con quel proletariato che torna a indossare quelle vesti della classe pericolosa, perché magari appunto decide di bere una birra in vetro dopo una certa ora per strada, o perché magari prova a svoltare pulendo i parabrezza al semaforo, o perché appunto non c'è un tetto sopra la casa e decide di occupare uno stabile senza fare accordi con l'istituzione di turno. Insomma, questo proletariato è sedentario, è demunito di tutto, e le sue reazioni potenziali diventano l'incubo della borghesia. La risposta sarà innanzitutto più polizia, più campagne di isterizzazione contro il nemico di turno, sia questo il clandestino, sia questo l'abusivo, l'anarco-insurrezionalista, e di pari passo appunto aumento delle strutture di prigionia, carceri, CPR, aumento del controllo della videosorveglianza, schedatura biometrica, aumento del controllo in frontiera, cooperazioni transfrontaliere sia giudiziarie che di polizia, e nuove tattiche per il cosiddetto crowd management, che sarà un tema che veramente impensierirà. Il crowd management sarebbe proprio la gestione della folla, che sarà un tema ricorrente nelle tattiche pensate sia dalla NATO e poi esperite da tutti i paesi membri, diciamo. Oltre al piano prettamente repressivo, la guerra ai poveri e la guerra a quel nemico interno si sviluppa su altri tre piani. Il primo è quello politico-diplomatico, in cui alle forze militari viene richiesto espressamente di instaurare rapporti di collaborazione con il territorio, e torniamo al punto di prima, essere abituati il più possibile a vedere i militari fin quando proprio non ci stupiremo più. Ovviamente la loro presenza è utile al controllo e alla gestione sia fisica, di nuovo la folla o gli sfollati o i rifugiati, sia psicologica, quindi controllo delle informazioni, instaurare rapporti con le realtà associative di turno, con le istituzioni locali. Il secondo punto sarà quello propagandistico, in cui appunto l'informazione deve essere trattata in maniera sistematica e coerente in ogni fase del conflitto, e questo coinvolge anche la stampa e coinvolge anche i partiti, nel senso anche cioè nel giochino della politica istituzionale anche i partiti di fazione opposta, magari c'è chi strizza l'occhio alle manifestazioni, però comunque poi tutti mantengono quella chiara linea del puoi manifestare, ma solo se lo fai dove diciamo noi e nelle modalità che diciamo noi, altrimenti sei un pezzo di merda terrorista e chi più ne metta. Il terzo piano è quello di ridefinizione dello spazio urbano occidentale, che a sua volta si sviluppa su tre piani. Il primo è quello della gentrificazione, ovvero l'espulsione dei vecchi abitanti dei quartieri popolari e la riqualificazione di questi spazi, ovviamente in un'ottica di consumo e turismo. Il secondo è lo spostamento degli eccedentari verso la coltre di baraccopoli periferica. Il terzo sarà l'insediamento delle gated communities, ovvero la borghesia che va a, che entra in quello che diviene il nuovo centro cittadino e che diviene appunto militarizzato, ipercontrollato, videosorvegliato e che presenta muri, tornelli a difesa, e questo lo vediamo appunto la ZTL, la zona rossa, dove il corteo non si può avvicinare perché appunto la priorità diventa quella di difendere quel bunker dorato, nonostante sia chiaro che si trova in un oceano di miseria che lo va sommergendo, ma la priorità diventerà la sua difesa. La nuova strategia militare nazionale punterà a quella che viene definita prevenzione attiva, che è semplicemente quel controllo continuo e quel presidio di territori e quella fusione tra esercito e polizia territoriale, in cui il primo comincia a svolgere le funzioni del secondo, mentre il secondo va incontro a un processo di paramilitarizzazione. Insomma, quanto più nell'ectoplasma metropolitano, che va estendendosi senza limite, il nemico diventa interno, allora tanto più sarà difficile per lo Stato attaccare questo nemico con dei bombardamenti a tappeto, perché questo nemico è un nemico non convenzionale, è un nemico estremamente interno e non è altro che uno sfruttato, è quella parte del proletariato che citavamo prima, che decide di organizzarsi per andare contro le politiche istituzionali o in formazioni che poi lo Stato definirà terroristiche o in raggruppamenti meno organizzati come quelli che emergono in situazioni insurrezionali. Io concludo l'intervento introduttivo con una domanda che magari poi riprenderemo nel dibattito che seguirà, è che innanzitutto noi compagni e compagni che veniamo identificati da parte dello Stato proprio nell'essere sfruttati e nell'essere persone ribelli, cioè come ci poniamo nell'identificazione della parola terrorista e nel fatto che ci venga data questa definizione qua? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è come ci poniamo all'interno di questa guerra asimmetrica. Penso che ci sono un'infinità di sfumature di azione e su come collocarsi, citando il libro probabilmente ai due poli. Ci sono da una parte i ragazzini e le ragazzine palestinesi che decidono di affrontare i carri armati degli invasori con le pietre e poi si accollano le torture, il carcere. Nell'altro polo c'è, diciamo, l'italiano medio che comunque accetta di fare una vita di merda, di soprusi, appunto sprofondato in questo sonno catodico e cullandosi nel mantra del io speriamo che me la cavo. E passo la parola alla compagna per il prossimo intervento. Grazie. Io volevo giusto fare una piccola precisazione sull'intervento di prima, sulla riforma dell'intelligence italiana. Insomma, al posto, prima ho dimenticato di dire che sono state soppresse il SISMI e il SISDE, cioè il Servizio dell'Informazione per la Sicurezza Militare, dipendente dal Ministero della Difesa, e il Servizio dell'Informazione per la Sicurezza Democratica, dipendente dal Ministero dell'Interno, e al loro posto ci sono l'AISI e l'AISE. L'AISI sarebbe l'Agenzia di Informazioni per la Sicurezza Interna e l'AISE è l'Agenzia di Informazioni per la Sicurezza Esterna. Quindi la differenza sostanziale è che se prima lo spartiacque posto era, diciamo, tra i due differenti ministeri di riferimento, adesso le agenzie di spionaggio si differiscono proprio tra chi svolge delle indagini su il nemico interno e su chi svolge delle indagini sul nemico esterno. Quindi poi sono queste due agenzie a rispondere al DIS, che risponde appunto alla Presidenza del Consiglio. Era giusto una precisazione. Allora, ovviamente non esistono risposte semplici, risposte univoche a queste domandone che pone il compagno. Però come Cassa di Solidarietà alla Lima ci teniamo a sottolineare una cosa: noi crediamo profondamente che sia fondamentale continuare a parlare, a ragionare insieme, a confrontarci sulla repressione e farlo nei luoghi più diversi, più disparati, quindi nei posti occupati dai compagni durante i benefit, ma anche nelle università, nelle scuole, nelle piazze, nei parchi, e parlarne con persone diverse, molto diverse da noi e anche diverse tra loro, quindi con compagni che magari hanno alle spalle tanti anni di lotta e di repressione per le scelte che hanno fatto, con compagni magari più giovani che si affacciano adesso alle lotte, e con persone che magari provengono da altri posti nel mondo o da contesti diversi. E ne siamo convinti proprio perché pensiamo che parlarne, esercitare la solidarietà e questa forma di condivisione siano gli strumenti più efficaci che abbiamo per combattere quella paura e quell'isolamento a cui lo Stato, attraverso le misure repressive, ci vuole rinchiudere e ci vuole costringere. Quindi quella guerra asimmetrica di cui parlava il compagno, di cui si parlava, sicuramente ci conviene arrivare preparati, consapevoli del fatto che in questa costruzione da parte dello Stato del nemico di turno, prima o poi anche noi potremmo rimanere invischiati, quindi ci riguarda assolutamente tutte e tutti e tutte. Ora, prima di introdurre le compagne che scenderanno più nello specifico del caso della costruzione abbastanza, insomma, esemplare di un nemico interno, che è quello del compagno Juan Sorroche, che abbiamo appunto scelto come esempio da approfondire, ci tenevamo a condividere con voi una riflessione che ci può un po' orientare e stimolare nel dibattito che faremo dopo. In questo paese sappiamo bene che per la storia che ha avuto ci sono e ci sono stati compagni e compagne rivoluzionarie che non hanno deciso di non scendere mai a compromessi con lo Stato, quindi hanno scelto di organizzarsi con metodi, con mezzi che sono stati ritenuti inaccettabili dalle istituzioni, perché hanno scelto di restituire al mittente almeno una piccola parte della violenza che ogni giorno ci viene propinata. Ora, questi compagni e compagne rivoluzionari negli anni sono stati additati come nemici irriducibili, come terroristi appunto, da tenere lontani, ben separati. È il caso dei militanti delle organizzazioni armate degli anni Ottanta, per esempio, che sono da decenni in galera, e nello specifico tre militanti delle nuove BR e del Partito Comunista Combattente si trovano in regime di 41 bis da 21 anni. Secondo la magistratura, che rinnova la necessità per questi compagni e compagne di rimanere rinchiusi in questo regime di tortura che è il 41 bis, il terrorismo e la lotta armata sono dei fenomeni carsici, quindi che, seppur invisibili all'occhio, hanno il potere di strisciare silenziosi e di riaffiorare poi in superficie. Quindi queste persone devono essere tenute ben separate dal resto della società, proprio perché potrebbero ispirare, istigare e insomma far venire di nuovo voglia di adottare certi metodi di lotta, come se mai ce ne fosse stato bisogno. La stessa cosa è avvenuta inizialmente con i compagni e le compagne di Area Anarchica, quindi sembra che lo Stato si sia, diciamo, inizialmente concentrato su quelle realtà e quei soggetti che ritengono legittimo l'attacco a simboli responsabili di questo ordine di cose attraverso alcuni metodi specifici, alcuni mezzi specifici. E quindi negli ultimi 20 anni i primi ad essere stati oggetti della repressione e oggetto dell'accusa di terrorismo sono stati quindi compagni e compagne che sono state ritenute dallo Stato responsabili di attacchi esplosivi, attacchi incendiari, di ferimenti a singoli individui. E ora non possiamo soffermarci sugli esempi, sarebbero moltissimi, possiamo citare sicuramente i compagni e le compagne coinvolti nel processo e nell'indagine scritta Manent, che è iniziata nel 2016, ma che insomma vuole punire, vuole attaccare azioni di lotta che sono state svolte in varie parti d'Italia dal 2003 al 2007. A questi compagni, così come ai compagni comunisti, è stato combinato l'articolo 270 bis, che è associazione con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere, l'articolo 270 sexiest spesso, cioè condotte con finalità di terrorismo, o quello di banda armata, fino ad arrivare all'accusa di strage, come ben sappiamo. Negli ultimi 10 anni si assiste a un cambiamento che gli stessi report dell'intelligence che prima il compagno citava hanno confermato. Cosa succede? Che nel clima di guerra globale in cui viviamo, con questa necessità di controllo, di profilazione generale e quindi con la necessità sempre più spinta di rintracciare un nemico interno da incolpare, le accuse di terrorismo si sono riversate verso una platea sempre più larga di persone e verso persone che avevano un profilo diverso da quello dei compagni e delle compagne che fino a quel momento erano stati colpiti da questa accusa. Prima di tutto è un dato incontrovertibile il fatto che negli ultimi 10 anni, nello specifico, ma dal 2019 in poi, specialmente, c'è stata un susseguirsi di operazioni che hanno utilizzato l'accusa di 270 bis, quindi di associazione con finalità di terrorismo, quindi una recrudescenza della repressione soprattutto nei confronti dei compagni di area anarchica, come ricorderemo bene o come insomma forse qualcuno non ha avuto la possibilità ancora di scoprirlo, però dal 2019 al 2024 c'è stata una successione rapidissima e costante di questi tipi di operazione, quasi 2 all'anno. Per fare una carrellata non esaustiva, perché appunto qui ci interessava di più fare un'analisi che un elenco della spesa, però insomma possiamo citare dal 2019 sicuramente l'operazione Renata a Trento e Scintilla a Torino, nel 2020 Ritrovo a Bologna, Bialystok a Roma, nel 2021 Sibilla ai compagni di Perugia e Spoleto, nel 2023 l'operazione Diana a Trento, Scritta Scelera tra Toscana e Liguria, fino ad arrivare agli ultimissimi nel 2024, un'operazione che ancora non ha nome ma che colpisce compagni tra Rovereto e Bologna proprio per le ultime mobilitazioni contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Ora, dicevamo, questo cambiamento presuppone il fatto che molte più persone sono state colpite da questa accusa e con un profilo diverso dal passato. In che senso? Negli ultimi anni anche chi ha animato e partecipato a tutta una serie di lotte che lo Stato e le istituzioni speculando hanno voluto fino a quel momento definire sociali, e ci tengo a sottolineare che è una speculazione e una differenza che sottolinea lo Stato. Tutte le persone che hanno animato queste lotte, tanti compagni che hanno animato lotte di questo tipo, sono diventate oggetto, target di queste accuse. Quindi chi faceva la lotte accanto alle persone immigrate, contro i CPR e la macchina delle escursioni, contro la presenza o la costruzione di basi militari, contro le grandi opere che devastano il territorio, in solidarietà a chi lotta in carcere, sono diventate in maniera differente in parte da prima oggetto di queste indagini. Facciamo un esempio pratico che ci può aiutare a capire. Ovviamente, ripeto, è solo uno dei tantissimi esempi che potremmo fare, ci è sembrato però esemplare per quello di cui stiamo parlando. Si tratta dell'operazione Ritrovo. È un'operazione che inizia a maggio 2020 con 12 arresti tra compagni e compagne di Bologna, più o meno tutti secondo le accuse vicine al circolo anarchico Tribolo, un'operazione che inizia con un dispiegamento di forze immenso tra ROS e carabinieri e vede l'arresto di 7 compagni e 5 con l'obbligo di dimora. Ora, anche qua le accuse sono associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, istigazione a delinquere, è interessante che queste accuse vadano quasi sempre insieme, poi lo vedremo in maniera specifica, e danneggiamenti e un incendio. Ora, al centro di questa indagine ci sono 2 lotte nello specifico, quella contro i CPR e la macchina delle espulsioni e quella contro il carcere e in solidarietà a chi si ribella. Allora, siamo nel 2020, quindi è appena iniziato il Covid, c'è un periodo di emergenza, quindi anche la necessità di un controllo sociale molto più spinta, e da un lato, cioè queste indagini poi si riferiscono al 2019 e al 2018, periodo in cui si voleva riaprire il CPR di Modena e quindi i compagni si sono organizzati più di una volta per impedire questa riapertura e per creare tanti momenti di lotta. Dall'altro era appena avvenuta la strage di Stato nelle carceri, appunto di marzo 2020, e nello specifico nel carcere di Modena. Ricordiamo bene che c'è stata la maggioranza di omicidi di Stato in carcere, e quindi queste due lotte e la solidarietà a queste lotte viene duramente colpita. Dagli atti delle indagini si legge che questa di Bologna era una cellula che, seppur in grado di compiere azioni molto piccole, era però pericolosa perché poteva ispirare compagni in tutta Italia a fare azioni simili. C'è un altro fatto specifico nel 2018, quando secondo le accuse è stato dato fuoco a un'antenna sui colli bolognesi che era usata da radio TV locali, dalle forze dell'ordine e da sistemi di sorveglianza audio-video. E oltre a questo una serie di danneggiamenti e imbrattamenti a filiale delle banche che erano collegate alle proprietà della struttura del CPR di Modena, oltre che contro telecamere e caserme. Che succede? Queste accuse pesantissime cadranno già in sede di riesame, e quindi quella di terrorismo. Anche l'accusa di istigazione cade nell'udienza del febbraio 2024. Adesso, ad oggi, rimangono 10 compagni rinviati a giudizio con le accuse di incendio, danneggiamento e imbrattamento. Ora, questo ci sembrava esemplare perché si tratta di due lotte nello specifico che in questa città e con compagni a noi molto vicini animiamo continuamente, e è lampante come ci sia stato un cambiamento da parte delle strategie della DNA e quindi poi appunto delle procure e delle questure nell'individuare, nel profilare questo nuovo tipo di terroristi. A tutto questo cambiamento sicuramente ha contribuito in larga parte il fatto che negli ultimi anni, in misura sempre più decisa, sempre più insomma importante, tutta una parte del cosiddetto movimento in senso largo, in senso lato, ha deciso di prendere le distanze da una serie di pratiche che i compagni hanno sempre messo in atto. Quindi facendo una differenza molto netta dal loro punto di vista tra pratiche giudicate violente e pratiche invece più condivisibili dall'opinione pubblica, più accettabili e quindi anche poi più riassorbibili dal discorso dello Stato. Che succede? Che ovviamente, secondo il dettame di Dividi e Timpera, lo Stato, il potere, guazzano in queste divisioni, in queste divergenze, e strumentalizzano questa situazione, e anche per questo motivo ecco che i paletti del consentito si restringono per tutti e le accuse di terrorismo iniziano a trovare una platea molto più ampia. Però che succede? In questi ultimi anni quindi questa accusa di terrorismo viene data quasi a pioggia nelle ultime operazioni. In tutte quelle che ho citato prima, all'inizio viene data l'accusa di 270 bis, a volte 270 sepsis e istigazione. E quasi in tutti i casi queste accuse cadono, e quasi sempre nelle prime fasi di giudizio. Allora perché viene combinato questo tipo di reato se poi puntualmente viene fatto cadere? Perché l'utilizzo di questa accusa giustifica per lo Stato la possibilità di operare, fare indagini con molti più mezzi e strumenti senza limitazioni, quindi raccogliere dati, controllare una grandissima platea di persone. Si pensa all'uso indiscriminato di senza troppi vincoli di intercettazioni, di perquisizioni, del prelievo del DNA, del controllo di persone e degli ambienti che queste persone frequentano. Quindi è chiaro che l'accusa di terrorismo, in modo parzialmente diverso rispetto al passato, inizia ad essere utilizzata sempre più spesso proprio per i motivi che citavamo prima, perché lo Stato ha la necessità sempre più di costruire in modo sempre più accurato, sempre più difficile poi da decostruire, una narrazione per cui esiste un'emergenza costituita da persone potenzialmente pericolose per tutta la società, più difficili da individuare perché, come dicevamo, sono gli sfruttati, sono i poveri, sono le persone che vivono con noi nei quartieri, siamo noi stessi. E quindi l'utilizzo di tutto questo impianto repressivo diventa assolutamente preventivo per spaventare, per creare divisioni, e quindi da un lato criminalizzare le lotte e cercare di fermare tutte queste lotte che negli anni sono continuate in maniera anche insomma molto, molto decisa, molto forte, e dall'altro attuare poi un controllo ad ampio raggio, una profilazione della popolazione, quindi uno studio approfondito dei profili dei potenziali socialmente pericolosi o terroristi, anche per, non ultimo, mantenere l'immensa macchina burocratica che è la DNA, quindi per giustificare la stessa esistenza di questo impianto. In ultimo, chiudo dicendo che questo discorso, questa riflessione che ci siamo fatti, trova un riscontro pratico nel fatto che sempre più anche gli strumenti di legge mirano a colpire intere categorie di popolazione. Si pensa agli ultimi decreti di legge e all'ultimo disegno di legge a firma Piantedosi, Nordio e Crosetto, e a punire sempre di più le lotte in corso. Disegno di legge non è stato approvato. Sì, è ancora un disegno. Viene introdotto, per esempio, il reato di rivolta in carcere nei CPR e nei centri di accoglienza, questo è assolutamente interessante, compreso anche di resistenza passiva a pubblico ufficiale, e si arriva fino a 20 anni qualora le persone promuovono, organizzano o dirigano una rivolta. Vengono inasprite in maniera, insomma, importante le pene per chi occupa stabili case, e in maniera ancora più forte per chi diffonde o detiene materiale che incita a impedire la realizzazione di opere ritenute strategiche, oltre a pene per l'imbrattamento, il deturpamento e, secondo le ultime, insomma, proposte, anche a ripenalizzare ancora di più l'utilizzo del picchetto come strumento di lotta. Io passo la parola alle compagne. Io leggo una lettera che è un contributo di Quan. L'iniziativa. Hola a tutte e tutti presenti all'iniziativa che si fa oggi alla Sapienza. Saluto calorosamente quelli che mi conoscono, come quelli che non mi conoscono. Un saluto per primo a chi ha creato questo spazio di confronto per la lotta e che mi ha dato la possibilità di esprimermi qui, e anche per la grande solidarietà che spesso mi esprimete. Per quelli che non mi conoscono, mi presento. Sono Juan Sorroche, un compagno anarchico prigioniero da 5 anni nel carcere di Terni in AS2. E in totale ho 28 anni di galera da fare per delle lotte anticarcerarie contro i CPR, antifasciste e antirazziste. Lotte anche contro le tecnoscienze molto nocive come gli OGM, la biotecnologia, le nanotecnologie e i metamateriali, con una disciplina come la plasmonica. Ricerche in cui, in particolare, l'università spesso sono all'avanguardia, ad esempio, per conoscenza mia, quella di Trento, dove ho e abbiamo coltivato e sviluppato radici e relazioni di vita lotta in anni con tutti i nostri limiti. Università che hanno tutte anche un'attenzione particolare a tutti i progetti con una spiccata valenza duale, ossia senza la distinzione fra campo di uso civile e militare. E voi mi direte cosa c'entra tutto ciò con oggi? Perché io credo che dobbiamo rovesciare questo discorso anche nelle lotte, dunque non sono separabili in compartimenti stagni. L'antimilitarista, l'ambientalista, il razzismo, il sessismo, la salute, la cura dei bambini e delle persone e del nostro pianeta, tutto ciò è parte della lotta di classe e della rivoluzione sociale. Come l'iniziativa che state facendo in questa sede sul ruolo della DNA e la funzione che ha nella costruzione del nemico sociale interno ed esterno, e che ad oggi la guerra contro il nemico interno si è sovrapposta irrimediabilmente a quella contro il nemico esterno, in un unico movimento per l'accumulo di predominio politico, economico e culturale che va innanzitutto a svantaggio delle popolazioni oppresse e degli oppositori. Per passare alla criminalizzazione delle lotte, che è proprio la strategia della DNA, e in questa strategia sta il forte militarismo di Stato. Però non mi vorrei soffermare oggi qui a riflettere solo a livello di analisi tecniche processuali o della repressione e della criminalizzazione delle lotte, oppure della mia criminalizzazione in quanto prigioniero specifico. Questo è anche importante e lo hanno fatto altri compagni molto meglio di me. Io vorrei invece far risaltare i contesti di lotta e di queste azioni rivoluzionarie in specifico, di cui mi accusano e che anche sono parte della lotta generale rivoluzionaria anti-autoritaria. E ciò al di là della mia responsabilità o no in tali fatti. Io ritengo necessario prendere posizioni politiche e libertarie per chiarire il senso delle cause delle nostre lotte e che abbiamo a cuore. Lotta che è rivoluzionaria anti-autoritaria e che, Io credo che il compito di chi li sta a cuore queste visioni delle lotte è dunque il sostenere chiaramente le ragioni rivoluzionarie e libertarie e tutte le identità messe sotto attacco oggi, e ciò per me è una questione di autodifesa collettiva. Come il provare a rovesciare la descrizione delle autorità e delle strategie repressive e della criminalizzazione delle lotte per rivoltarlo in un discorso nostro di lotta e dargli una prospettiva e intrecciarle alle diverse lotte generali che ci sono oggi. Questo è il compito che credo ho, come prigioniero anarchico, il come impostare politicamente i processi per la difesa tecnica processuale e come questione mia e dei miei avvocati. Così come il processo che comincia il 16 luglio a Brescia, di cui sono accusato di 280, attentato terroristico. Un attacco esplosivo avvenuto nel 2015 contro la Polgai. È una struttura in cui addestrano le polizie di vari paesi alle tecniche antisommossa e controguerriglia. E così come ho provato in passato ad impostarlo nella condanna specifica per la Lega Nord, per provare a rovesciare con la lotta la criminalizzazione come solo questione di errore giudiziario e dargli dignità alla nostra lotta, perché questi processi e condanne non solo vengono a colpirci, a noi come individui specifici a sé, ma soprattutto come dinamiche tattiche strategiche dello Stato italiano complice delle guerre coloniali in generale, e in specifico per quella di Israele in questo momento storico, con il pattugliamento strategico della nave di guerra nel Mar Rosso e l'enorme vendita d'armi ad Israele per difenderlo, così come la complicità nella repressione e nell'imprigionamento per ordine di Israele in Italia di 3 palestinesi con l'utilizzo del 270. Hanan, rinchiuso in questa sezione di AS2 di Terni, a loro va tutta la mia solidarietà. E qui rientrano praticamente questi strumenti repressivi generali con gli ordini non tanto velati della potente macchina della Direzione Nazionale Antiterrorismo Antimafia, con condanne esemplari in questo momento storico al nemico interno ed esterno. A me in specifico per gli ordigni alla sede della Lega Nord a Treviso, con una sproporzione di pena tra i fatti e il reato, condanna che non trova precedenti negli ultimi decenni di storia del movimento anarchico. Con l'aumento della repressione e il cambiamento di interpretazioni delle leggi esistenti, come con la legge di strage politica, così come per la prima volta è passata la strage politica nelle condanne di Anna Beniamino e Alfredo Cospito, compagni anarchici, che va tutta la mia solidarietà e stima. Sproporzione è dire poco, eppure è così per il nuovo processo dell'ordigno contro la Polgai, scuola di polizia, con dietro sempre l'indirizzo e gli ordini della non tanto velata DNA, che sta dietro la magistratura bresciana. Tutto questo insieme di strategie è il militarismo che è nelle guerre come nel carcere in cui mi trovo, ma anche nell'università dove vi trovate voi, come in tutta questa nostra civiltà. È il militarismo con le strategie repressive e di controllo che concentra tutto questo meccanismo perverso e schifoso del carcere sociale in cui viviamo tutti. Combattere il militarismo alle guerre significa muovere da pulsioni etiche, di empatia, di cuori solidali e contro ciò che è essenzialmente l'autorità e la santificazione della gerarchia, che è la strutturazione sistemica del più forte e ricco che schiaccia il debole, il povero, e di una società che ha imposto ciò come se fosse natura umana. Ma non è solo così, ci sono altre visioni di vivere al di là di questa civiltà gerarchica e credo saldamente ad un altro modo di vita, una vita olistica. Ciò è possibile adesso, perché la pratica della lotta significa, oggi come ieri, dare speranza reale all'umanità, che ha una propria visione di cosmovisione dell'universo, davanti al dramma che vediamo nelle guerre e di questa barbarie socialmente organizzata. Perciò bisogna oggi più che mai aprire nuovi percorsi di lotta e continuare quei percorsi che abbiamo fatto negli anni passati, e allargarli con più forza perché sono fondamentali per la lotta e per la nostra esistenza. Certo, ognuno con le sue diversità, i suoi modi e mille metodi, ma con un solo orizzonte libertario e per un mondo senza guerre, per la propagazione delle pratiche di solidarietà rivoluzionarie e qualsiasi via stiamo percorrendo, sempre col cuore. Contro la repressione, contro la guerra, per la rivoluzione sociale. Vi saluto con un forte abbraccio e stima, buon proseguimento nella vita lotta e perciò faccio una chiamata a tutti i compagni che vorranno fare presenza energica per il mio processo a Brescia il 16 luglio alle 9:30 e far sentire la solidarietà, oppure quello che ogni individualità si senta, con la creatività come unico limite. Juan Soroche. Questo intervento non ci doveva essere in realtà, perché noi contavamo sulla presenza di realtà, di compagni di lotta di altre parti, però insomma il caldo, gli impegni, la lontananza, il costo ormai nel muoversi, per cui ci stanno tutti rinchiudendo nei territori perché come ci si muove sono soldoni, hanno fatto sì che c'è questo intervento e non ci sarà appunto interventi più diretti di persone, di compagne che hanno più questa situazione vicine. Ovviamente speriamo anche poi nel dibattito che segue che insomma ci siano più anche esperienze. Ci ricordiamo la mobilitazione per Alfredo. Bene o male, molte e molti di noi si sono conosciuti in quelle situazioni. Una delle cose che emergeva tantissimo era per esempio che per alcune realtà, forse quelle più democratiche, la questione di fondo era quella che il 41 bis ad un anarchico non poteva essere dato da un punto di vista di diritto, oppure che certo il 41 bis effettivamente è tortura. Quello che diciamo è stato compito e di cui ce lo rivendichiamo tutto, è quello di raccontare attraverso le parole di Alfredo, quindi nessuna si sostituiva a lui, le azioni, almeno quelle che lui, anche quella di Adinolfi, che ha rivendicato insieme a Nicola, suo coimputato e condannato, cosa c'è dietro delle azioni. Delle azioni che spesso vengono raccontate, perché sicuramente la DNA è la parte che investiga e si crea e ha tutti gli strumenti per poter agire, come è stato prima ben raccontato. Poi ci sono chi fa il lavoro della DNA, cioè la voce della DNA che passa attraverso i media, i quotidiani, l'informazione. E la criminalizzazione, cioè il sottrarre alla persona che in quel momento viene additata come nemico, viene sottratto il ragionamento che c'è dietro le azioni, la posizione politica che c'è dietro le azioni, il contenuto. Non viene mai raccontato, per cui si passa da essere degli strateghi e tattici della violenza a essere degli esaltati, a essere, prima si parlava appunto di terrorismo, ricordiamo che terrorismo ci può anche non essere l'associazione sovversiva, però magari c'è un danneggiamento a un traliccio e c'è la finalità di terrorismo, cioè il danneggiamento diciamo viene aggravato dalla finalità di terrorismo, che significa appunto tutto quello che gli interventi prima hanno detto: possibilità di indagare a vasto raggio, possibilità di soldoni, perché non ci dimentichiamo che l'Italia chiede soldi costantemente all'Europa, sia per una posizione diciamo geografica particolare e sia perché ancora vive di quelli che sono stati fenomeni mafiosi, di quelli che poi sono stati fenomeni di organizzazioni armate definite dagli organi repressivi e dallo Stato terrorismo, e quindi c'ha questa portata per cui può sempre, appunto come diceva la compagna, essendo poi che ci sono questi fenomeni, sono carsici e prima o poi esplodono, quindi l'Europa dà soldi a palate per far sì che diciamo tutti gli organi repressivi possano appunto essere dotati di strumentazioni di controllo tecnologico e non solo. Allora, quello che crediamo sia il compito di chi affronta le lotte e si trova a conoscere situazioni che a un certo punto cascano su alcuni compagni, alcune compagne, o anche chi comunque lotta, o anche, poi ci sarà un intervento che racconterà meglio, chi in quanto da provenienza viene considerato il futuro nemico, è quello di capire, comprendere, approfondire quali sono le ragioni, perché quello che avviene è che di fronte alla gambizzazione di Adinolfi, di fronte all'attentato alla Polgai, di fronte all'attentato di cui Juan sta pagando 14 anni di galera, inizialmente erano 28, poi in appello sono diventati 14, il pubblico ministero per l'attentato alla Lega, che all'inizio aveva ipotizzato come capo di imputazione strage, poi si è reso conto che forse non sarà radiofonico, vabbè, stava un po' esagerando, e quindi l'ha ridotto, è un attentato con aggravante di terrorismo, ma qua si parla di 28 anni la richiesta del pubblico ministero e gli anni che sono stati dati per un danneggiamento che non è, diciamo, innocentismo, ma obiettivamente non ha ammazzato né ferito nessuno. Alla Lega di Villorba, Treviso. Che cos'era quel periodo? Quel periodo era il periodo in cui c'era il decreti Salvini. Traini aveva sparato a Macerata colpendo gente immigrata che riteneva tale. A Firenze è stato ammazzato un ambulante. Casa Pound aggrediva compagni a Genova. Questo è il periodo in cui si inserisce un attentato alla Lega, alla sede della Lega. Ovviamente questo viene assolutamente decontestualizzato dalla narrazione dei media e viene dato addosso al terrorista Juan Sorroche. La Polgai, Juan spiega nella sua lettera, io vi leggo solo perché poi sono questi linguaggi tecnici che io faccio sempre molta fatica a memorizzare, quindi leggo, scusatemi. La Polgai ha organizzato negli anni corsi di formazione in tecniche di indagini investigative avanzate in materia di antiterrorismo per le polizie nigeriana, tunisina, egiziana, cioè gran parte, diciamo, lasciamo perdere quando si parla di regimi, no? L'Egitto e cosa fa, l'udienza che non va avanti, questa è la Polgai, quindi evidentemente non è che l'Italia stia spingendo chissà quanto, ma poi pensiamo anche a tutte le persone torturate e arrestate in Egitto. Per la polizia, sempre la Polgai, vietnamita, ha istituito un corso di lingua italiana per 10 frequentatori, e anche per la polizia francese. Insomma, sono degli acculturati, evidentemente. Questa è la Polgai, quindi parliamo di torturatori, assassini, massacratori, ma questo non viene fuori. Però questo non viene fuori. Questo non viene fuori, e appunto viene fuori la violenza di qualche o lupo solitario o persone inserite in contesti, diciamo, di lotta, la violenza di questi compagni e compagne. Perché? Perché la violenza è assolutamente monopolio dello Stato, e di fronte alla violenza dello Stato, che appunto addestra la Polgai a tutte le schifezze che sappiamo, non è che non sappiamo, e chissà quante ne dobbiamo immaginare, quella non è considerata violenza. Lì anzi c'è tutta una narrazione sul fatto che la DNAA assolutamente vuole bloccare i trafficanti di esseri umani, perché la DNAA è buonissima, e quindi i trafficanti di esseri umani sono quegli assassini che la cui colpa è colpa loro se la gente muore nei mari e nei confini terreni. E vediamo tutti quelli che sono appunto gli accordi fatti appunto con questi stati citati prima. Per cui noi riteniamo che sia fondamentale restituire a chi appunto viene tacciato di volta in volta come l'assetato di sangue violento, quella che è i motivi, le ragioni, l'incazzatura la vendetta che c'è dietro azioni di un certo tipo, che siano o meno loro le persone responsabili. E in questo appunto ci deve essere una, cioè se uno c'ha ben presente cos'è la violenza di Stato, quella che poi viviamo quotidianamente, e cos'è la violenza di qualcuno che restituisce una minima parte a loro della violenza, forse diciamo ci sono meno persone isolate e lasciate in pasto alla repressione. Juan adesso ha questo processo per la Polgai e guardate, questa è una cosa fantastica, è accusato di associazione di 270 bis, associazione sovversiva, uno, e solo Juan. Non ci sono, cioè sono menzionati altri, ma non ci sono altri, per cui l'associazione sovversiva non è la prima volta, tra l'altro, però a Juan gliel'hanno regalata. Inoltre, questa indagine già era caduta su Juan, già avevano chiesto, avevano indagato su Juan e avevano archiviato perché non erano riusciti, diciamo, a concretizzare le indagini. Ebbene, dopo questa archiviazione, e qua sembra uno scioglilingua, ma entra la magica, il magico DNA, non DNAA, ma le tracce di DNA che vengono trovate casualmente in uno zainetto bruciacchiato, ma si riescono a identificare quei valori che potrebbero portare, diciamo, a collegare quelle tracce di DNA a Juan. È da qui che nasce la richiesta, perché Juan era già in carcere, ma c'è stato il mandato di cattura in carcere per questo e adesso c'è questo processo. Voglio solo citare un'altra situazione, che a Napoli c'è Zach e lui è stato accusato di un attentato esplosivo, poi vai a vedere i tecnici, sembra davvero che sia stato di lievissima entità, quantomeno la carica, il potenziale di questo ordigno, dove a Napoli, al consolato greco. Anche qui, perché a Napoli al consolato greco? Perché allora c'era lo sciopero della fame di un prigioniero greco, un prigioniero di lunghi anni, che a un certo punto, anziché in qualche modo per una forma di buonsenso e gradualità rendergli la vita un po' più semplice all'interno delle galere, lo stavano trasferendo in una galera che era punitiva per lui. Quindi ha iniziato uno sciopero della fame portato davvero fino a estreme conseguenze e c'è stato questo, diciamo, questo attacco al consolato greco. Anche questa era una notizia che non emergeva, comunque non veniva messo in collegamento. Zach si è beccato un'accusa di 270 quinques, che significa autoaddestramento, fa parte di tutto quel pacchetto che è venuto fuori, che il compagno prima diceva, sono cose che emergono durante l'emergenza e poi rimangono. Cioè questo 270 bis c'ha una marea di commi, sexis, quinques, e sono tutte specifiche. Zach si è beccato questo. Ora di Zach voglio solo dire, adesso gli arresti finalmente, dopo un anno, perché le accuse di così gravi come l'associazione sovversiva comporta anche una lunga detenzione in carcere cautelare, Zach, se non sbaglio, dopo un anno, forse più, di galera, è agli arresti domiciliari e l'11 luglio ci dovrebbe essere la sentenza. Adesso abbiamo parlato, e chiudo, dei nemici, quelli con la N maiuscola, quelli proprio che lo Stato e gli organi, gli apparati dicono attentato qua, attentato là, ma badiamo che il nemico può essere anche qualcuno che non ha questa, cioè non merita tutta questa attenzione, perché magari lo si ritiene responsabile di cose più, diciamo, più leggere. E per esempio ci dispiace, perché oggi qui si sarebbe dovuto essere i compagni e le compagne del campetto occupato di Giulianova, che hanno in qualche modo all'interno del loro territorio iniziato una serie di pratiche di lotta costanti, quotidiane, contro l'amministrazione di quel paese, e si sono anche loro beccati delle campagne denigratorie enormi, quindi anche loro sono dei nemici. Oppure il fatto di, non so, che ci sono state cortei per la Palestina, promossi anche dagli universitari, e che cosa esce? Solamente che ci sono degli scontri, che ci sono stati questi che hanno attaccato la polizia, si capisce come, tra l'altro, che la polizia si è dovuta difendere, si è fatta mano alla manina, forse perché si danno le manganellate tra loro, però anche questo è un modo di definire, di dipingere chi partecipa a questi cortei, chi li promuove, come dei nemici, cioè viene sottratto la valenza politica e i motivi per cui ci si batte, si lotta e si intende continuare a battersi e a lottare. In 41 bis ci sono tantissime persone immigrate accusate appunto di jihadismo, ma tante, cioè c'è a Nuoro che ce ne sono varie, per cui ecco, spesso quando parliamo di 41 bis questo aspetto lo mettiamo. Grazie. Ciao, allora la parte finale di questa così tentativo di restituzione di qualcosa appunto che è abbastanza imponente e soprattutto ha un lavoro nel corso degli anni costante, appunto si parla degli anni 90 quando nasce, come è stato detto prima, la seconda A viene aggiunta nel 2015, l'antiterrorismo, ma come è stato già accennato e come proviamo a vedere ora, queste pratiche di antiterrorismo sono ovviamente abbastanza già allenate da tempo, e quello è un passaggio poi più che altro poi formale nel dare a questa appunto super procura questi superpoteri. Si è parlato del nemico interno, adesso a prescindere dalla sua provenienza, Juan in spagnolo, nemico interno per così viene definito, appunto, e anche per provare a semplificare un attimo un discorso. Ora proviamo a parlare di chi è comunque qui, però viene percepito a tutti gli effetti e anche là in maniera costante come un nemico esterno, ovvero gli immigrati poveri aggiungerei anche, perché se no non funziona molto il discorso. Nella puntata precedente l'immigrato è diventato un mafioso, in questa puntata l'immigrato è di base un terrorista. E come veniva detto nell'intervento di prima, se per avere questa etichetta l'immigrato, appunto, qui non bisogna aver compiuto niente, non bisogna aver fatto niente, bisogna essere, e in questo caso si è immigrati, si è poveri e si è musulmani, perché ovviamente poi parliamo di un terrorismo ovviamente dove la componente religiosa è centrale, visto che poi le declinazioni sono diverse. E con gli immigrati, in un certo senso, la lotta all'antiterrorismo, che se magari si è connotata per tanto tempo come una lotta ideologica anche, no? Visto quello che è stato anche nominato e tutto, qui diventa anche una lotta razziale, in un certo senso, che trova le sue pratiche di distruzione, di controllo e di morte dalla notte dei tempi. Noi, come abbiamo fatto finora, guarderemo appunto l'ultimo quarto di secolo, che già è abbastanza impegnativo. Ci faceva piacere ricordare chi magari ha incarnato, appunto, ritornando all'inizio del secolo scorso, il binomio immigrato e anarchico pericoloso, come possono essere stati Sacco e Vanzetti, così per far capire poi quanto questa roba va ancora più indietro, ovviamente adesso va indietrissimo. Con l'immigrazione, appunto, l'inizio del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre dà un'accelerata a tutta una serie di procedure, pratiche, idee e progetti che erano già in nuce, erano già presenti nelle teste di chi governa a vari livelli. Si ha un'accelerata, come è stato raccontato prima, c'è una riforma anche strutturale proprio di come funziona l'intelligence. E questa accelerata, che ha delle ripercussioni poi ovviamente nella vita, nel quotidiano, per un immigrato, possiamo dire dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, questo controllo, queste pratiche antiterrorismo sono quotidiane, colpiscono il quotidiano, i quartieri, le periferie sono i nuovi luoghi di scontro e di battaglia, chi abita questi luoghi sono i nuovi nemici, e quindi vanno controllati e stressati H24 in ogni aspetto della loro vita. Da qui, dall'inizio degli anni 2000, partono una serie di dispositivi, ne citeremo alcuni così anche più eclatanti per far capire quanto è pervasivo questo controllo e quanto rimane, cioè tutto quello che è stato fatto non è che poi non c'è più, è stato abolito, resiste. Il decreto Pisano 2005, il decreto Pisano è quello che innanzitutto va a fare un controllo massiccio, questo ovviamente sono indicazioni che vengono dall'alto nei territori, quindi ogni internet point deve avere un permesso della questura per essere aperto, quindi questo significa un controllo dei proprietari di internet point pervasivo ovviamente, senza possibilità di così sfuggire. Le tessere telefoniche, che prima forse qualcuno se lo ricorda, qua si potevano acquistare senza nessun problema, senza dare documenti, dal 2005 col decreto Pisano bisogna lasciare un documento, questo ovviamente nasce perché appunto ci sono i terroristi comunicano e parlano e quindi bisogna controllarli, e il decreto Pisano è anche quello che poi introduce il prelievo del DNA, quindi qualcosa che poi va a toccare le vite di tutti quanti noi. A seguire abbiamo l'altro decreto che è stato citato prima, quello di Maroni, che viene sempre citato perché comunque Maroni ce l'ha messa proprio tutta, diciamo, per non scontentare nessuno, e anche lì siamo nel 2009, quindi ovviamente siamo ancora, appunto, lo scenario è uno scenario comunque allarmato non solo da, appunto, la paura del terrorismo, ma è uno scenario che inizia ad essere allarmato dalla paura della miseria, perché nel 2008 scoppia la bolla finanziaria negli Stati Uniti, che patatrac, ovviamente sono gli Stati Uniti, coinvolge senza possibilità di fermarsi tutte le altre economie del mondo a cui sono strettamente connesse, quindi uno scenario dove davanti alla miseria e alla paura il controllo deve essere ancora più feroce, ancora più efferato. E il pacchetto sicurezza cosiddetto di Maroni, diciamo, non tocca un po' tutto quanto, nel senso si va proprio a colpire gli immigrati, ovviamente come sempre introducendo il reato di immigrazione clandestina, diciamo che poi questo sarà un perno su cui verrà poi operato tutto il resto in termini di politiche migratorie. Un controllo che passerà anche per la mano dei sindaci, quindi se un sindaco, ovviamente questo in una città come Roma magari sfugge, ma in comuni più piccoli di cui è fatta l'Italia è abbastanza facile, se trovo qualcuno che non ha un permesso di soggiorno, io sindaco lo posso denunciare alle forze di polizia. È una cosa che può succedere così, ovviamente vado a comprare le sigarette e mi trovo in un CPR se c'è posto. Viene introdotta la già citata operazione Strade Sicure, che coinvolge decine di province italiane, e una nota, voglio ricordare che negli ultimi anni ci sono stati anche un tasso di suicidi abbastanza alto tra i militari che hanno partecipato a questa operazione, questo come, diciamo, da mettere anche questo sul piatto. Il controllo verso le persone immigrate è pervasivo, perché viene chiesto di presentare il documento di soggiorno in situazioni dove un documento di soggiorno, magari parliamo del 2009, quindi di parecchio tempo fa, non era necessario. Quindi diciamo che ogni tuo movimento in quanto immigrato viene controllato in maniera costante. Questa cosa sembra non avere a che fare direttamente con il terrorismo e le operazioni anche, diciamo, in gran stile di spiegamento di forze che possiamo immaginare, ma è ancora peggio perché è quotidiano e come tante volte anche come compagni nei confronti nelle assemblee, magari o perché viviamo in certi contesti o perché ci siamo trovati in certi posti, questo controllo che poi viene giustificato, come è stato già detto, con il terrorismo avviene a 360. Nel corso degli anni l'attenzionamento è dal momento della partenza, dal momento in cui si decide di lasciare, si decide, il proprio paese fino ad arrivare sulle coste italiane. Questo perché? Perché appunto, leggendo anche con grande curiosità, perché in effetti c'è effettivamente di tutto, le diverse relazioni dell'intelligence che sono disponibili a partire dal 2007 fino al 2023, quindi comunque ci danno una bella visione di quello che di come opera lo Stato, che comunque ha una costanza su alcuni temi importante e interessante, qual è l'immigrazione. Cioè, la ricetta per l'immigrazione è attenzionare i territori, che sono poi non a caso i territori che, da cui vengono i poliziotti che vengono poi formati nella Polgai, come la Tunisia, come l'Egitto, ovviamente il Nord Africa, è il primo cruccio per l'intelligence italiana, no? Ma questo da sempre, ovviamente con l'11 settembre c'è stata un'accelerata, territori ovviamente come la Libia, che poi sappiamo bene che fine ha fatto e che fine fa, perché ancora ad oggi dinamiche di controllo feroce delle persone immigrate sono ancora vive in quel territorio e sono assolutamente oliate dai governi, dall'Unione Europea, dal governo italiano in primis, anche qui in maniera trasversale ai governi, ecco, quindi c'è una costanza anche da parte dei governi, cioè dal 2007 ad oggi, che di governi ce ne sono stati e ne sono caduti in questo paese, diciamo su alcuni temi c'è una visione comune e un'unione di intenti che non lascia spazio, quindi la ricetta per l'immigrazione è sempre la stessa: più controllo nei luoghi da cui si parte, più controllo al momento dell'arrivo e più controllo una volta che sei arrivato nella tua quotidianità. Quindi questa è una cosa che rimane costante tutto il tempo. Poi, che rispetto all'Italia e al fenomeno del terrorismo esterno, rispetto agli altri paesi europei, sicuramente ci sono delle anomalie, no? Anche per il semplice fatto che è una cosa che salta agli occhi, adesso questo ovviamente non lo dico io, ce lo dicono gli ultimi 20 anni, rispetto a un'Inghilterra, una Francia, Belgio, Austria, anche paesi appunto più piccoli di quelli appena citati, effettivamente attacchi terroristici di una portata così feroce e violenta come è avvenuto, appunto è stato citato prima l'attentato a Londra nella metropolitana, su cui pure lì ci sarebbe tanto da dire, però in Italia tutto questo non è mai successo. C'è qualcuno che ha scritto anche, di così citando altrove, di un accordo tra Stato e Islam, che probabilmente appunto adesso andrebbe anche approfondito. Questo ne siamo, perché in Italia non accade? Adesso io non è che voglio rispondere a questa domanda, tiro fuori questo però, diciamo, altro spunto di riflessione per capire come non... Perché se fosse accaduto un attentato, una serie di attentati come il Bataclan o come appunto Londra o come anche la metropolitana in Spagna, ecco, diciamo, ce ne sono stati di episodi negli ultimi 15 anni che hanno avuto un peso importante, l'Italia ha più che altro avuto episodi che riguardano quelli che sono definiti cosiddetti lupi solitari, ma neanche, perché poi il lupo solitario tecnicamente risponde a un'organizzazione esterna, mentre nel caso dell'Italia sono persone che, come li chiamano, gli home ground mujahideen, cioè quelli fatti un po' in casa con operazioni low cost, che sono un po' arrabbiati e che vengono poi incanalati come terroristi. Io prendo un esempio per tutti perché secondo me è abbastanza emblematico, forse qualcuno se lo ricorderà. Nel 2019 un senegalese con cittadinanza italiana, un uomo adulto, autista di autobus, decise di prendere in ostaggio questo autobus dove c'erano 50 ragazzini e 3 insegnanti. E lo fermò, lo dirottò, così riportano i giornali, e provò anche a dargli fuoco. Ovviamente tutto questo avvenne in una modalità assolutamente simbolica, non c'era nessun intento di dare fuoco a 50 bambini e 3 adulti. Fatto sta che quest'uomo ad oggi è in carcere, sono 24 anni di carcere, un'accusa di terrorismo. Lui ha rivendicato il suo gesto, appunto stiamo nel 2019, dicendo: io faccio questo perché sono stanco, non ce la faccio più di vedere i miei fratelli e le mie sorelle che muoiono in mare, io condanno Salvini a crimini contro l'umanità e quindi io questa roba me la rivendico, non volevo far del male a nessuno. E oltre ai 24 anni di carcere deve risarcire di migliaia di euro, solo per farvi capire sono 25.000 euro a testa a bambino, i bambini, i genitori, il comune di Crema, solo una famiglia, ovviamente era pieno di bambini di cosiddette seconde generazioni in questo pool, ma parliamo della Lombardia, quindi parliamo della regione che ha la più alta presenza tra le regioni che ha la più alta presenza di immigrati in Italia, sicuramente no, e solo una famiglia ha detto no, io non voglio nessun rimborso, magari anche come forma di solidarietà nei confronti di questa persona. Quindi ecco, questo forse può essere l'episodio più eclatante che ricordiamo, perché gli altri si perdono anche un po', cioè ci sono state diverse operazioni tra il 2009 e il 2013 anche che hanno portato all'arresto di persone, che sicuramente hanno contribuito a far entrare delle persone. Questo è, cioè il problema è che c'è un feroce binomio tra immigrazione e terrorismo, quindi anche il flusso migratorio, cioè chi entra da alcuni contesti che poi anche a livello proprio obiettivo, cioè sono il Nord Africa o la famosa rotta balcanica, che significa che sono persone che però arrivano, partono dall'Iran, dall'Iraq, dal Bangladesh, non è che partono dalla Serbia per arrivare praticamente quasi a piedi in Italia, nel senso, quindi il binomio è talmente feroce che l'immigrazione clandestina significa favorire l'ingresso di terroristi. E questo è qui che salta tutto. Quindi davanti a questo, cioè questo è, sono le lenti con cui lo Stato, il suo apparato e tutti quanti, diciamo, gli attori coinvolti in questa partita guardano i flussi migratori. C'è una costanza feroce dal 2007, ovviamente anche da prima, ovviamente i flussi migratori poi si sono andati a intensificare negli ultimi 10-15 anni, soprattutto quelli, diciamo, più eclatanti, perché poi ad oggi la gente entra in aereo ancora, il grosso delle persone non italiane entrano con un visto in aereo. Sicuramente la rotta del Mediterraneo, così come quella balcanica, si sono, soprattutto quella del Mediterraneo, si sono incrementate. Quella balcanica ha visto nel 2015 il passaggio di quasi 1 milione di persone, quindi sicuramente ecco, hanno avuto un ruolo, però le lenti con cui questi passaggi, che poi coinvolgono anche gli autoctoni, vengono visti a seconda del momento, a seconda della situazione, come passaggi, azioni che portano verso azioni terroristiche, non c'è altra alternativa. E quindi qui bisogna proprio, diciamo, spogliarlo del tutto di questo, perché il binomio è troppo stretto, cioè non è un caso anche che in queste relazioni della DNA, in queste relazioni dell'intelligence, che ovviamente operano insieme, la questione terrorismo esterno, quindi quando si parla di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, l'ISIS, il califfato, no? Cioè tutta roba anche immensa ai nostri occhi, anche perché viviamo magari appunto in un paese che ha vissuto in modo più marginale certi fenomeni rispetto ad altri paesi europei. Ecco, quello che sembra che accade sulle montagne nel Waziristan, tra l'Afghanistan e il Pakistan, ha delle ripercussioni poi su quello che accade a Torpignattara. Ecco, questo è il problema, perché poi anche qua ovviamente quartieri come Centocelle, Torpignattara, Porta Palazzo, zone a Varese, zone a Brescia, zone a Napoli, né le varie testi dell'intelligence sono ghetti islamisti, sono luoghi da attenzionare. Quindi sì, è vero, l'Italia non ha avuto il grande attentato, non abbiamo avuto episodi così feroci, non abbiamo avuto le nostre torri gemelle, però abbiamo una serie di personaggi che insidiano le nostre vite, quindi noi dobbiamo terrorizzarci ovviamente, no? E qui mi fa piacere citare un compagno immigrato che dice: a noi ci danno dei terroristi, quando in realtà noi siamo terrorizzati da voi e dalle vostre politiche, quindi se vogliamo continuare a usare la parola terrorismo. Io chiudo, perché mi sto anche un po' perdendo, però chiudo, volendo fare degli esempi abbastanza vicini a noi, abbastanza attuali, di terrorismo, perché ho parlato del 2019, ci sono episodi del 2017, ma cose minime, un tunisino che infilza con un coltello 2 militari, o un libico che prova a far scoppiare un piccolo dispositivo in una caserma a Milano. Ecco, nel senso, questo è quello che è accaduto materialmente in termini di attacchi terroristici in questo paese. Sicuramente però le accuse di terrorismo sulle persone immigrate fioccano e vanno alla grande a ridosso dell'11 settembre. Se eri un musulmano era meglio che te chiudevi in casa. Torniamo ai giorni nostri, che sono passati 23-24 anni. Vorrei ricordare il noto esempio, è stato già citato appunto anche perché vive nello stesso carcere insieme a Juan, ovvero Anan, che appunto anche lì la sua storia è abbastanza emblematica, no? Di come poi le cose vengono fatte a tavolino. A gennaio gli viene detto: devi essere estradato perché tu sei appunto un combattente terrorista, cioè tu appartieni alla brigata Tulkarem che appunto difende la sua terra. Anche qui il discorso chi è terrorista, iperattuale poi se pensiamo anche alla sentenza della Corte Penale Internazionale su appunto chi condannare. E nel momento in cui si capisce, cioè lui riesce a non essere estradato, ma il giorno stesso, quindi in maniera assolutamente a tavolino e scientifica, viene accusato di terrorismo in Italia. Quindi io Stato italiano mi levo dall'impasse di non poter né dire no a Israele non estradando questa persona, ma neanche diciamo facendo finta di niente. Quindi ti dico: ok, no, sei inestradabile, però sei un terrorista e quindi io ti metto in un carcere, in una sezione speciale a Terni, e metto in carcere uno a Ferrara e uno a Rossano, gli altri due coinquilini, ovvero Ali e Mansur. Quindi questa storia è una storia appunto già più nota, perché c'è stata anche l'attenzione, questo è importante, la solidarietà, ancora una volta, la solidarietà è una delle pratiche che noi possiamo mettere in moto. Un'altra storia che secondo me diciamo fa proprio, si sposa bene, scusate il verbo, con quanto detto, ovvero con quanto che se tu che organizzi dei viaggi da certi paesi per venire in Italia, viaggi irregolari, se tu sei su quella barca e magari dai da mangiare o dai da bere o per sbaglio sei vicino a quello che un attimo guida, che dice: senti, mi reggi un attimo che devo, che ne so, grattarmi un orecchio o una cosa del genere, sei accusato di essere uno scafista. E vorrei ricordare, forse questi meno noti come esempi, la storia di due donne assolutamente attuale, perché sono in carcere, una da ottobre e una da dicembre. Sono due donne, una, quella che è in carcere da ottobre, sicuramente meno famosa, è una donna iraniana molto giovane che è stata accusata di essere una scafista, è stata anche violentata dalle persone che l'hanno accusata di essere scafista durante il viaggio. È ora, lei è arrivata qui col figlio e l'hanno messa in carcere, si trovano in Calabria queste persone, forse anche per questo c'è un eco meno forte, no? Un po' alle periferie del regno dove poi invece avvengono queste cose. Lei ora è riuscita a ottenere domiciliari in un centro d'accoglienza insieme al figlio, però ovviamente è ancora in piedi un processo che la vede appunto con questa accusa. Quindi nell'ottica del governo italiano lei ha partecipato a un'organizzazione terrorista, perché ha organizzato un viaggio di disperati. Questa volta parliamo dalla rotta balcanica, infatti per quello arrivano sulle coste calabresi. L'altra, forse più nota, scusate, allora, la prima donna si chiama Marianne Jamali e lei appunto adesso si trova a dover affrontare un processo per terrorismo praticamente. E l'altra invece è sicuramente forse più nota, essendo lei una regista curdo-iraniana, Maysoon Majdi. E lei, c'è anche una campagna che la sostiene, lei scappa dall'Iran, da un Iran appunto che anche in questo abbiamo avuto di conoscere indirettamente, con rivolte e violenze soprattutto verso le donne. Quindi lei è stata costretta a lasciare l'Iran, ha fatto tutta la traversata appunto, quindi a piedi, con un autobus, con una macchina, per arrivare fino appunto ai Balcani per poi imbarcarsi, e anche lì, perché era quella che dava da mangiare e bere, è stata messa in carcere e ha iniziato anche uno sciopero della fame che è già terminato, e adesso si trova ai domiciliari anche lei, però anche lei ha un processo in corso e lei stessa ha detto: preferisco tornare in Iran, dove almeno so per cosa mi accusano, visto che qui neanche so per cosa mi stanno accusando. Quindi questo era per fare un esempio. Poi vorrei fare un riferimento e concludo a una realtà che è sicuramente più vicina a molte di noi, a molti di noi, che è quello che da 20 anni, da 15 anni subisce la comunità bengalese nella zona, diciamo, nella comunità bengalese che si trova a Roma, perché è quello che conosciamo. Sicuramente queste dinamiche hanno colpito altre comunità musulmane in altre parti d'Italia, e noi sappiamo anche sia perché sono informazioni che sono poi circolate anche sui giornali nel corso degli anni, nel corso del tempo, sia per le relazioni che abbiamo, che questa comunità ha subito tantissime perquisizioni delle loro sedi, proprio con ritiro dei computer, dei faldoni, per appunto questo proprio quasi in automatico dopo l'11 settembre, nel senso non c'è stato un episodio, ci sono stati magari dei comunicati, delle esternazioni che però ecco si sono ridotte a un foglio di carta o a un comunicato su un social network, che hanno messo in moto una macchina di controllo e anche di chiusura di spazi, di chiusura di luoghi di preghiera, che sono, diciamo, non sono moschee, ma si chiamano luoghi di preghiera, con un controllo pervasivo, appunto, quindi diciamo mettendo in pratica tutto quello che poi è stato scritto e agito, no, nei confronti delle persone ammigrate. È anche una comunità che si è esposta, ricordiamo le vignette dell'episodio di Charlie Hebdo, ricordiamo le magliette di Calderoli, è una comunità che, con tutte le contraddizioni del caso, però è stata in strada anche per esternare, diciamo, la sua identità musulmana, che non significa necessariamente inneggiare al jihad, ecco, anche qui poi c'è spesso una grande confusione, diciamo, quindi questa esternazione, questa visibilizzazione di un problema ha attenzionato negli anni la comunità, che a cui hanno provato a dare accuse di terrorismo, sono cadute, perché ovviamente anche qui non ci sono i fatti, però il controllo è pervasivo e arriva appunto fino ai giorni nostri, perché poi, ritornando all'intervento iniziale, tutto questo controllo, tutta questa punizione, tutti questi sgomberi, tutti questi allontanamenti servono perché questi posti servono liberi, da mettere al profitto, da farci stare chi ha i soldi e chi può far girare soldi, quindi alla fine poi si ritorna sempre lì con una scusa agghiacciante, perché ovviamente un impianto come la DNA e tutto il resto non solo mette in campo certe leggi, certi strumenti, certe modalità, ma come è stato detto prima, attraverso i mezzi di comunicazione e tutto, mette in circolo anche una certa cultura, una cultura della paura, una cultura del terrore, che è difficile da combattere e da sconfiggere. Grazie. Visto che si è parlato di comunità bengalese, insomma, di tutta quanta quella che poi è stata la repressione, l'esperienza personale mi sono ritrovata per 3 anni a fare ricerca nelle moschee della cosiddetta comunità bengalese, che poi non è proprio una comunità, nel senso che è attraversata da linee di divisioni politiche, economiche, forme di sfruttamento, stratificazione di classe e anche differenze religiose non indifferenti, compresa la presenza di una componente laica che è molto ostile alla pratica dell'Islam nella stessa comunità. Quindi è uno scenario molto più complesso di come lo rappresentiamo noi. Però, tornando alla questione repressione, insomma, cioè, essendo stata all'interno di alcune moschee bengalesi, cioè, possiamo dire che là la presenza della DIGOS e dell'antiterrorismo è cosa normale, ormai da moltissimo tempo. E la cosa, tra virgolette, interessante, chiaramente questo non riguarda solo le moschee bengalesi, ricordiamo che la prima moschea, le chiamiamo moschee perché le persone che le frequentano le chiamano moschee, tecnicamente sono state le preghiere, perché lo Stato italiano praticamente non c'ha accordi con l'Islam. Infatti Farida dice in Italia ci sono gli attentati perché c'è stato un accordo tra lo Stato italiano e l'Islam, cioè l'Islam è policentrico e centrifugo per natura, cioè con chi fai accordi? Cioè o fai accordi con Al-Qaeda, capito? Cioè non è che c'è un papa dell'Islam, chiunque che ha un seguito diventa imam, ed è questo infatti che preoccupa molto lo Stato, perché è una religione centrifuga. E interessante che dopo aver chiuso la moschea Luda, che è stata la prima a Roma perché c'erano passate delle persone che poi erano coinvolte negli attentati a Londra, quindi l'hanno obbligati a cambiare imam, ci hanno gli occhi sopra eccetera, a partire dagli anni 2010 hanno cominciato ad affiancare a strumenti, come dire, più acuminati come quelli dell'antiterrorismo, anche strumenti terra terra, per esempio colpire le moschee e chiuderle per violazioni delle norme urbanistiche, uscite di sicurezza eccetera eccetera, arrivando fino a dei casi clamorosi, nel senso la moschea degli Zerbelloni per esempio a partire dal 2017 è stata chiusa più volte a più riprese. E là, quando non sapevano più a che cosa attaccarsi, perché quella era una moschea a Tablighi, dove comunque sia certe tendenze non ci stanno, e dove comunque sia hanno provato a accollare il fatto che la circolazione delle persone da una moschea all'altra a livello internazionale, che è tipica di quella setta sufi, fosse una forma di circolazione di, come si dice, know-how terroristico. In verità no, non ce l'hanno fatta. Quando non sapevano più che fare, l'hanno attaccati su tutto il fronte, quindi uscite di sicurezza, lavori non autorizzati, fino ad arrivare a praticamente chiudergli la moschea, perché hanno ritenuto che in quella moschea, chiaramente non essendoci un accordo sulla religione islamica, non si facesse un culto religioso, si facesse uno spettacolo, che quindi l'imam fosse un officiante di questo spettacolo e che il pulpito da cui fa la predica fosse un palcoscenico. E quindi, visto che non era autorizzato tutto questo, alla fine gli hanno chiuso la moschea. Cioè, insomma, l'insieme degli strumenti che vengono messi in campo sono di tutti i tipi, cioè fino alle leggi, proprio alla bassa cucina comunque poliziesca, le mette in campo delle leggi urbanistiche, qualsiasi cosa, pur di colpire questo tipo di soggettività. E l'altra cosa che un po' ha spaventato molto lo Stato italiano è stato quando nel 2015 le varie moschee, non solo bengalesi, ma anche arabofone in molti casi, sono andate tutte quante in piazza davanti al Colosseo. Quell'immagine così incongrua di una presenza di persone musulmane che pregavano di fronte a un'icona del turismo globale, eccetera, eccetera, ha fatto il giro del mondo, e insieme a essa la condizione a cui sono sottoposte queste persone qua in Italia. Adesso questo per dire, fai una cartografia della repressione, probabilmente molte di noi non condividono molto, io per prima, con l'ideologia di questi posti, ma non perché è un'ideologia chiaramente come ci dice lo Stato, perché è un po' differente, no, dal tipo di ideologia che portiamo avanti noi, però io dico, di fatto tu c'hai a che fare con un vero e proprio laboratorio della repressione, cioè all'interno di quel tipo di situazione, come dice, si sta approntando una sorta di coltellino svizzero della repressione, che parte dagli strumenti più acuminati a quelli apparentemente più tranquilli, di per cucchiaio, e una volta messo a punto sarà trasferito fuori sicuramente come tutto il resto, credo. Io volevo collegarmi ad alcuni degli interventi che sono stati fatti prima per aggiungere alcune considerazioni, sia dal punto di vista, diciamo, di quello che significa appunto la terminologia che lo Stato utilizza rispetto ad alcuni contesti. Quindi la parola terrorismo, che sostanzialmente deriva dal fatto che alcune pratiche, alcune azioni, alcuni fatti commessi vengono identificati come un qualcosa che nella popolazione cosiddetta civile, o comunque nella categoria che viene colpita, vengono interpretati come dei gesti che vogliono avere una risonanza più grande dell'azione in sé, instillando terrore e quindi rendendosi degli amplificatori di un sentimento di insicurezza complessivo. Anche qui è un termine che lascia spazio a una grandissima interpretazione, perché è abbastanza difficile identificare in maniera oggettiva ciò che possa essere un qualcosa che terrorizza e ciò che invece lascia indifferenti, soprattutto quando si passa dall'analizzare che alcuni episodi possono magari colpire nel mucchio e quindi magari possono dare un livello di instabilità maggiore, e altri che invece sono delle azioni che sono ragionate per colpire degli obiettivi specifici, e quindi chiunque non rientri tra quegli obiettivi non si capisce da cosa dovrebbe essere terrorizzato. E poi volevo aggiungere anche quello che era stato accennato, utilizzando sempre la terminologia dello Stato e della divulgazione giornalistica, che nei rapporti del rapporto sulla pubblica sicurezza, sulla sicurezza interna, viene identificato nell'ultimo periodo come uno dei principali problemi a cui prestare attenzione, quello appunto dei cosiddetti lupi solitari, dell'addestramento, dell'estremizzazione di alcuni soggetti che tramite internet, tramite l'autoformazione, vanno a radicalizzarsi. E questo mi porta a due riflessioni, che una riguardante il fatto che si prova da un lato a anteporre all'azione la prevenzione sempre più a monte, in modo tale che anche solo un soggetto sospettato di essersi interessato a determinate tipologie di cose, e solamente perché magari quelle cose sono collegate con un substrato religioso, ideologico, politico o quant'altro, automaticamente fanno sì che quel soggetto venga potenzialmente identificato come un terrorista, anche se di fatto magari nella pratica non ha fatto nient'altro che leggere. E qui la seconda riflessione è strettamente collegata, e cioè quella di arrivare a un controllo che è praticamente a livello di psicopolizia, perché tu prima ancora di poter immaginare di compiere un reato vieni buttato in mezzo e trattato come se quel reato l'avessi già pianificato, già commesso e magari anche veduto. Concludo dicendo che queste due riflessioni si accompagnano anche con la constatazione che, se da un lato la nascita di queste strutture della DNA che andava a perseguitare e a cercare di individuare associazioni mafiose e terroristiche che, appunto, essendo associazioni, si presuppone siano composte da più soggetti, il fatto di aver implementato questa nuova figura, cioè del lupo solitario, dell'estremista solitario, dell'individualista, come potenziale nuova figura di nemico da attenzionare, siccome non riescono del tutto a schiodarsi da quella che è la loro visione di un capo e dei seguaci, anche in questi casi cercano sempre di farlo rientrare, per una similitudine ideologica o di contesto o di matrice di appartenenza, sempre a qualcosa di più grande. Quindi una serie di persone che, magari ispirate da motivazioni completamente diverse le une dalle altre, con un substrato simile o con un filo rosso che le collega, come tutti gli sfruttati possono essere collegati al fatto di essere, appunto, sfruttati, poveri, marginalizzati, eccetera eccetera, questa sola linea di unione diventa il motivo per credere che, anche se loro non si conoscono, se la finalità dei loro gesti presunti o compiuti non sono di fatto collegati, nel complesso vanno a sommarsi, perché tutte insieme danno una visione di terrorismo. E quindi questo rientra nella nuova pratica del mettere insieme dei fenomeni che insieme non sono, e quindi creare delle associazioni anche dove associazioni non esistono, ma per perpetuare, appunto, il gioco della repressione e continuare a tenere in vita il costosissimo organo di repressione che è la DNA. Non ho un'idea chiara rispetto a quello che dirò, nel senso che sono state dette moltissime cose, sono stati fatti anche dei ragionamenti intorno ai dati che sono stati esposti, che condivido, quindi non so bene in che termini aggiungere al discorso, se non che forse ribadire il fatto che chiaramente i vari strumenti di cui che sono stati nominati nel corso dell'iniziativa, fatti di leggi, pacchetti sicurezze, istituti appartenenti, appunto, allo Stato e ai suoi servizi, in questo caso non sono altro che funzionali, appunto, non tanto al mantenimento, secondo me, dell'organo repressivo, quanto al mantenimento proprio del sistema, diciamo, in cui viviamo, fatto di sfruttamento, eccetera eccetera, di descritto ampiamente nei vari interventi. Quindi è rispetto a questo che ci dobbiamo fare delle domande e considerare lo strumento dell'antiterrorismo come diciamo qualcosa che viene utilizzato in senso strategico, in senso tattico da parte dello Stato. Anche diciamo le scelte che sono state fatte nel corso degli anni sull'utilizzo di questo o quel reato per perseguire, insomma, le varie componenti di cui già hanno parlato in precedenti interventi, tra cui quella dei cosiddetti compagni e compagne, sono sempre scelti in base a un'analisi di fase che viene fatta, diciamo, a monte, cioè dallo Stato, dai suoi servizi, ripeto, eccetera, dai suoi organi inquirenti, e da polizia e carabinieri. soprattutto direi questi ultimi. Citando qualche, dico questo perché avendo avuto un po' sott'occhio, diciamo, quelle che sono state le inchieste soprattutto relative al componente dell'area anarchica negli ultimi 20 anni, comunque ho notato che fine ultimo ogni volta che veniva messa su un'inchiesta era sempre e comunque, e in questi ultimi anni in maniera ancora più feroce, diciamo, quindi il fine era quello di assicurare alla realtà colpita dall'inchiesta un numero proprio di anni di pena il più alto possibile. Ecco perché poi vengono, diciamo, nel tempo rispolverati reati che magari ai quali eravamo poco abituati, come ad esempio la devastazione e il saccheggio, come ad esempio il reato di strage, che mai, diciamo, ci era capitato tra i tipi di reato utilizzati, insomma, nelle inchieste anche per reati associativi, insomma. Ad esempio mi ricordo nell'inchiesta torinese contro i 4 compagni accusati di aver bruciato il compressore dentro il cantiere TAV, primo esempio in cui, appunto, come diceva prima qualcuna, è stato utilizzato uno degli articoli introdotti dal pacchetto Pisano, che era il 277. Diciamo, nelle carte, nel ragionamento che facevano gli inquirenti su con quale reato perseguire questa azione e quindi direttamente i compagni e le compagne coinvolte insomma nell'inchiesta, loro prima di diciamo utilizzare il reato di attentato con finalità di terrorismo, giustificato appunto dalla condotta terroristica, giustificata, cioè ripresa in tutti i passaggi dal pacchetto Pisano, appunto, e ipotizzavano l'utilizzo del reato di devastazione e saccheggio. Quindi il ragionamento che facevano lo facevano veramente esclusivamente finalizzato a poter comminare una pena il più alta possibile rispetto all'azione che comunque doveva essere perseguita, rispetto alla quale era necessario dare un esempio non solo ai compagni coinvolti ma a tutti quanti, in quel caso un intero movimento. E altra cosa, che in realtà tutti questi tentativi, più che tentativi purtroppo, cioè questi passaggi che ci sono stati da parte dello Stato nell'affinare le proprie armi, noi l'abbiamo effettivamente negli ultimi decenni sempre visti in termini preventivi, e di fatto lo sono, comunque con vari esempi citati prima, sia insomma in vari interventi. Comunque l'Italia fa sicuramente scuola in questo campo, e di conseguenza, cioè, anche perché chiaramente viene da una sua storia che vorrebbe, diciamo, rimuovere, che è quella degli anni, delle lotte degli anni 70, ma insomma, comunque è un paese che è all'avanguardia, diciamo, rispetto a tutta una serie di strumenti, appunto di armi, di codici, di pacchetti sicurezza, di leggi fondamentalmente, che ha approvato in periodi in cui sicuramente risultavano preventivi. Chiaramente loro non lo facevano perché erano degli stupidi, ma perché erano lungimiranti, insomma, proprio per poterli tirare fuori dal cappello o comunque utilizzare nel momento in cui lo avessero ritenuto necessario. Questo non solo in base agli andamenti sociali, diciamo, ma anche, e secondo me questa è una parte che in questa iniziativa rispetto all'altra forse è stata meno citata, perché quando parliamo di inchieste rivolte ai compagni e alle compagne abbiamo sempre un po' una difficoltà nel parlare di montature, nel sottolineare il fatto, anche se è comunque stato fatto negli interventi precedenti, però diciamo, quindi questa difficoltà nel prendere in considerazione di che cosa si sta parlando quando si parla di un attacco allo Stato, ad esempio, o alle strutture dello Stato, o agli uomini dello Stato. Sicuramente il discorso rispetto al quale è molto importante tenere il contesto e capire da che cosa nasce una determinata azione, cioè questo è fondamentale, ma questo, diciamo, è una banalità di base, nel senso, per noi, però è stato, cioè, ho condiviso il fatto che sia stato sottolineato, perché effettivamente è anche l'unico modo per uscire dalla retorica che poi lo Stato impone, insomma, su questi avvenimenti. Chiudo semplicemente ribadendo che la DNA comunque è qualcosa che cioè è uno strumento di enorme potere, questo volevo dire, che quando sceglie di utilizzare un articolo del codice o un altro, lo fa, diciamo così, anche a prescindere dal contesto. E questo è, diciamo, la sua storia, come è stato invece ben espresso nella scorsa iniziativa, comunque è fatta di un procedere, l'altra volta si parlava di antimafia, ma insomma completamente autonomo rispetto diciamo all'emergenza, poi o creandola l'emergenza e quindi dando una risposta, oppure approfittando di alcuni eventi, diciamo così, però insomma in un procedere che è sempre teso al alzare un livello, diciamo così, che appunto va contestualizzato per essere compreso e quindi poi va restituito all'esterno anche nei termini che gli competono, cioè, quindi quando parlavo di montature, cioè questo strumento ci rende proprio chiaro quanto il potere faccia le carte false. Se non ci sono altri interventi, ci possiamo salutare. Grazie a tutti per aver contribuito, grazie di cuore, grazie per essere venuti.